mettevo dove c'era quello spazio grande per entrare al mare e rimane in alto, e poi al mare bisogna scendere giù, altrimenti prendevi tutto. Quando mi biglio la macchina, se andiamo, va a casa del sardo, che logo. Ma sei stufo di girare, altro? Che cosa? Ho detto, non sei stufo di girare. No, per me un posto vale l'altro, ma non ho distinzione. E vabbè, è che lo fai per lavoro, se poi vai per girare per vedere i posti è diverso, Sì, quello sì. Quando lo fai per lavoro devi rimanere lì, che su punto e basta, non ti muovi. Chiappa. Adesso se ci avrò qualche giorno libero metto la benzina, metto e riscendo a portare i fiori, vado in paese, vado a Santa Maria Covina. Cosa c'è a voci? A chi andi? A tua nonna? Sono già andato io, sono sceso in moto. Ma chi c'hai lì a Santa Maria Covina? Sì, io sono andato lì con Pierpaolo, siamo andati una volta al funerale. Sì, era... Ma che non mi ricordo chi era morto. No, mia nonna. Me l'aveva detto di fare compagnia, così sono andato a fare compagnia. Ma... Sì, me lo ricordo, c'è un cancello grande all'entrata. Sì, me lo ricordo bene. Sì, ma poi io mi fermo, vado a trovare il parente ad Agostina... a quei parenti che ci abbiamo noi, capito? Quando ogni volta che scendo io mi fermo, sono sceso una volta solo, sono sceso quest'anno a Giubboscio, 10 euro di benzina ho messo. Io mi ricordavo che era la coda ruina, non era la coda ruina? A Valle d'Oria? No, Santa Maria Covina, e ci chiudo che c'è cosa che cade in di volte. Avanti, aspetta, già sto controllando un pezzo di un tablet su me, un attimo, arrivo subito. Avanti, Pomponio, cosa ci racconti? Oggi questo bravo bevuto ne hai. No, sono andato l'altro giorno a Portatore a fare la visita medica. Da 70 kg che pesavo ne peso 67 adesso. Sto bevendo acqua e... sto mangiando anche di meno, il caldo mi capito, non ti viene voglia di mangiare nuda, più che bere acqua non fa, mi sto riempendo lo stomaco d'acqua, non ci sta più niente, fanculo cazzo, a 35 gradi, pure la roba bella non più bella, cazzo, se esci fuori dal bar con 35 gradi, se hai bevuto birra sei fottuto, sì, mi arrivi a casa morto. Qualche fermenta. Fermenta sì. A parte ti dato la roba ghiacciata, ci hanno quel vizio, capito? Bicchiere ghiacciato con la birra ghiacciata, e quindi se sei poco sudato rischi il cazzo di rimanerci secco. Lo sai che la gente vuole la roba croccante. Già. Una volta solo dove sono andato, a Badesi. È bello Badesi. Io andavo a pescare lì. È una bella spiaggia. No, sono andato proprio in paese. Sono passato da Castelsardo, sono passato. A Giubigliardo, per Santa Teresa, Badesi, ho fatto tutto quel rettilineo, cazzo, il motore. E come benzina, un bel consumato una volta. Ma cosa consuma? 5 euro, buone. Per andare a Badesi? No, quando sono andato così lontano 10 euro ce li ho messe. 10 euro li ho messe. Comunque adesso tira bene, va bene. Cazzo si tira. Vabbè. Tu, si fa quel che si può, tanto giri lo stesso, dai. C'ho il DR, c'ho, e gare che c'è, Monica. E ci avevi cosa vuoi mezz'oretta. Ci sono andato anch'io in scooter a Valeria. Ah, a Castelsardo mi pare che era. In moto con Simona sono andato una volta. Con lo scuba a casa. Per carità a casa. Poteva arrivare. pensavo di diffondere il motore, e invece sono arrivato tranquillo, sono anche rientrato. Poi mi sono fermato a portavola e mi sono bevuto la birra. Ci sei good. No, non sei macolo, e cazzo, con tutta quella strada lì non saranno. No, non ti puoi cuocere il moto, non so. Se ti fermano adesso ti fottono. Ieri c'era una rissa alla rotonda, i ragazzini, vedi, quelli che sono di Bussoli avranno avuto 16-17 anni. Ma la rissa allucinante. Sì, e io non c'era già San Donato la rissa, si sono accoltellati in quattro ambulanze c'erano. Si sono tutti fuggiti da quella via. C'è rimasto solo uno, c'è rimasto San Salese lì che abita via San Donato. Tutto il resto sono tutti nigeriani. Che c'è via tutta Eddy, no la gente di qua. Ah, è già via cultura, i nigeriani qua non ci devono entrare proprio, perché sono una rossa di merda proprio. E ci sono accoltellati ieri notte, me l'ha detto l'amica di Simona ieri, capito? Dice che stavano spacciando e poi sono accoltellati, finché la mattina fino alla sera sono tranquilli, poi la notte si sbronzano, capito? Io non so che c'hanno il circolo in via dei cosa? In questo subito di Emanuele, c'hanno il circolo, c'hanno i negozi alimentari. E quindi tu non ci puoi manco entrare, figura di due, se entrano in casa lo sbattono fuori. E quindi comprano l'alba a bere, capito? E poi quando una volta che sono sbronzi vanno e si abbeggiano col coltello, a volte c'hanno anche la pistola. E io avevo letto che avevano sparato un vigile urbano anche. Già lo so, ma capito, si sono messi in testa che di essere in Nigeria a ricomandare loro. Speriamo che il sindaco ci rappia e ci butti fuori, perché a quanto sembra vuole rimetterci in nuovo questa serie a abitare. Quindi ci sbatterà senz'altro da qualche altra parte, speriamo ci rimette a parte lì e da qualche deposito. Se trasforma a dormito di che lascia lì. O se no si rampa il male, quindi un bel di lui. Cosa ci fanno qua questa gente qua? Che tanto sono tutti delinquenti. Io non dico i senegalesi che sono bravi, ma loro proprio, anche i senegalesi lo dicono, che sono la razza peggiore. Già lo so, già. I nigeriani sono la razza proprio peggiore, i senegalesi sono in gamba. Che abbiamo sempre avuto noi a Sassari, parlavano sassarese, erano simpatici, tiravano anche la mano, capito? Sono grandi lavoratori, se ne fanno il culo, ne conosco tanti di quelli, ma i nigeriani proprio, per carità. C'è un bar di buco che parla sassarese, meglio di sassarese, figurati. L'altro giorno ho trovato a Porto Torso, prendendo, prima prendeva a Pratamora, poi avevano fatto la rettata, li avevano andati via, eccetera. Avevano sequestrato tutta la merce. E se è andato a Porto Torso, ha detto, qua paghiamo per restare e non ci tocca nessuno. Stiamo bene, vendiamo, ci sono le feste, quindi la gente c'è, vendiamo bene. E non ci disturba nessuno, piano piano andiamo avanti, ma mi ha detto tutti i sassarisi, mi ha detto, sono l'intruscia prima, là, allora siamo guardati in diretta. Glielo credo, lì sono bene, c'è anche il turismo, quindi poi con le feste lì a Porto Torres già ce ne sono, a voglia. Qua Sassari è diventato un togliaio adesso. Centro storico specialmente, non ci puoi passare di notte, no? Lì, con la scorta devi passare, almeno 4 o 5 devi essere, e ben attrezzato pure. Ma se andarci col calabico? Allora, per carità, una volta si stava bene, con subito di Manuele, eccetera, eccetera, i giganti non esistevano. C'era solamente brasiliane, di tutto c'era, senegalesi, ma non si succedevano queste cose qua. Adesso i padroni del caso, siccome pagano tutto il comune, hai capito? Si sono appropriati del centro turco e poi ci sono le bande di questi minorenni anche, lì vicino al mercato civico, hai capito? E fanno il casino che vogliono. Ma anche la polizia li teme, capito? Li teme anche la polizia perché loro sono armati, capito? Quindi anche i poliziotti li temono. Se no gli ha fatto una retta che aveva stigato i bizzigati, così se no gli ha tutti ammazzati. E quando le avessi cosa fai? Dopo 24 ore sono fuori, lo sai. Quindi a un certo punto non li toccano più nemmeno. L'unica cosa sarebbe aprire l'asinara e metterceli di lì. All'asinara e capito? Riaprire dopo il carcere e metterceli nell'isola dell'asinara, lasciarli di lì da soli, sì. Dargli un po' di pecore, un po' di capre e vivono con quella, posso rispacciare. Così hanno finito di rompere le palle. No, li devono fare rimpatriare queste persone. Non vanno bene. Quando gli altri paesi ce ne sono, tipo Francia, Spagna, si vede. O se vai verso Verona e quella zona lì a vedere se c'è di questa gente, non vedi un senegalese, un cinese, a Verona non vedi nessuno di questi, di queste persone qua. Non li vedono proprio. Già lo so, ma è stato Campos a farceli venire qui, capito? Ce li ha messi lui lì, e prima di Campos l'altro, quindi ce li ha messi lì a pedaliera, poi la pedaliera salivano usati, tortori, colli lì, a rompere le balle senegalesi, eccetera, eccetera, poi gli stessi assalesi, molti di fame che ci sono, affittano al comune, il comune dà i soldi ogni mese, siccome paga il comune loro non pagano manco la lira di tasca loro, e più si prendono reddito di cittadinanza e vanno a spacciare, perché se, la roba non, se non c'è soldi non arriva la roba, si presta poco ma sicuro. E c'è un giro allucinante, poi non so se l'hai sentito, a una certa ora quando arriva fanno esplodere i fuochi d'artificio, fanno in modo che capiscano che è arrivata, capito? E io mi sento di tanti fuochi d'artificio, io verso le 9:30 alle 10, io li ho sentiti, però non ho visto niente, ho detto boh, fuochi d'artificio alle 9 di sera, strano, però non ho visto dove diavolo era. Pensavo fosse a pedaliera, magari con qualche coppietta che si è sposata, a volte succede anche a Marini qua, che c'è una coppietta che si sposa e dopo che è finito il matrimonio, capito, fanno i fuochi d'artificio qui a Marini. Sì, è vero, l'ha fatta anche mia nipote quando si è sposata, hanno fatto i fuochi d'artificio. E vabbè, quello era un matrimonio di quegli riti proprio bello. Era organizzato benissimo, guarda. Ah, tipo la sorpresa, come quella che hanno sequestrato. Avanti che vado a entrare. Sparito, ho sentito un bip. Avanti che vuole entrare. No, è chiuso sugli altri. No, gli ho sentito un bip, però è sparito. Evidentemente non vuole ascoltare. C'è Arturio, c'è Luca. Luca, vabbè, sta sbalettando. Avanti, Arturio, ci sì. Antonio deve essere con Monica, con la sorella. Luca. Già, aspettatemi qualche minuto, devo chiudere questo tablet, capito? E l'ho sistemato, dai, non caricato, adesso carica. E poi mi sto facendo il computer anche. E ti sei sudato su questi computer? No. Ah, se stesso. Metti. Perché non ha fatto un formattare? Non comprendi niente. Non ci chiede formattare. No, è lento, lo sto formattando io, ma non lo fa formattare. Domani con Rai 1, Rai 2, Rai 3 diventa DVB-T2, invece vecchietti domani casinati. Io sono rientrato, modulazione di frequenza dei lati dolci. Che ragazzi, eccolo qua. Bene, i nocchi, madonna. Altro confessato ci stai. Tu, Arturo, si è messo, ha preso il barumizio della Cibù, l'ho toccato tutto, poco fa è caduto, uia. No, mazzo sull'asciugatrice che ci vuole il gambo. Ecco, mi piace. Devi seguirlo, se non lasci uscire, lo sbando, quasi che su chi vuole. Sì, tra una mezz'oretta, a me lo sapevo. Poi devo rullare il ciclovemme. Tra una mezz'oretta prendo, mi lavo, mi sescio un etto. Dove vai? Per cosa ne so, boh. In cacchè logo. Papi! Qua in giro, mi in zona. Non voglio starci a casa. Beh. Va bene, là. Va bene. Oh yeah. Io fra una mezz'oretta devo uscire col cane, lo faccio girare un po' come gli dono a casa, perché oggi sono stanco morto, ho dormito come un ghiro. Non so, questo sonno che ho dopo pranzo, mi sono convocato nel divano, stavo guardando un programma e dopo 5 secondi mi sono addormentato, mi sono riuscito a dudare. Caffa. Biondino, abbas ha caputato lo gol. Sei una scena, sì. Ha caputato lo triciclo. Si è caputato due dello triciclo. È una cosa che non si crede, eh. Sì, tutte esperienze so. È una cosa qua, incredibile. Si è posto a impinnare con lo triciclo, l'ha caputato. Oh yeah. Ah! Che semi. Cos'è? Che bella compa, yuhu! Adesso c'ho un cavallino, un asinello, adesso riesce a salire lì anche e a fare dindon, dindon e a dondolarsi, ma che cosa che appunto è già burro, ho paura. Cavallo. Ehi, ha malato. Cavolo, ma... Si pone sempre sopra, si pone. È periodo adesso che comincia a camminare, a fare, scopro le cose. È un gioco già, si muore impinna. No, ma era motocross. Oh, quando è manno ora giù il tuo. Mia papà la motoretta che da virtuale, aveva di buoni brinchi, brinchi. La giuito quando è in mano che va a 14 anni, si fura morto, vedo si piglia la patente. Da poi devo vedere pure come ti guida. A chi il macco di catena non ne voglio vedere, no, un pinnente vende. Io sono caduto dall'impennata, la moto nuova nuova. Ho impennato, caso mi si gira la moto, caso su quel caglio ti ho facciato un paranino, non l'ho mangiato la di... Prima devo vedere lo capo come te l'hai brullata, poi vediamo. Ma poi vediamo se è tocca la moto, se no non è tocca, è andare a pigliarsi la burro la patente. Se no non è tocca la moto. A 14 anni si prende quella lì. A me sono stati sempre contrari a comprarmela, i miei genitori potevano, ma non le compravano perché avevo paura. E la giubilata della Ragua, me la giubilata della Ragua, quando sono tornato a casa con la moto, mio padre, e di chi è questa moto? La mia, come la tua, e me la sono comprata, visto che non la compravate voi, me la comprate io, ma tu sei pazzo, e ti avevo detto di no. E cosa entra? Se uno va a capo che la guida bene, la tene bene, ma cosa no? E avevo paura che mi succedesse qualcosa, capito? Sai come sono i genitori, no? Non si fidano. Hanno paura che ci succeda qualcosa, poi la moto è micidiale, la moto è una massa cristiana, se tu non la tratti come devi trattarla ti farà bua forte. Ah, io no, io la tratto bene, la tratto, no, io dico, ma che la moto deve andare a travagliare con la moto, ma manco di capo, sì. Ci tratta bene. Io quando ando da Bastiano, quando ando da Vallomotto, io dico chi? Voglio chizzo rosso. Dammi chizzo. Il top. Non me la putti nulla canto lo banco. Dammi chizzo. A 20 euro al litro. 24 euro al litro. Voglio chizzo. Boh, finito. È l'olio per un motore a due tempi. È importantissimo. No, non ne voglio mandare, non mi dà, non me ne presentare a me. Una volta me ne voglio, non ne voglio di chissà roba, vai, un po' di gira. A me mi dai rosso buono, baramotto. E il pitone, non è che si campa quattro volte di più si campa. Ma lui deve arrivare al motore. Io gli mettevo un Epson, perché la piglia mette Epson. Sì, vabbè, non è che la piglia Bonegisso e Bonegisso, no. Io uso Bardai, uso il top. Voglio, è quello più, l'Exit, il più caro, il migliore, per quella moto. A due tempi, siccome gira molto in alto, perché c'è DR sotto, è truccata, io voglio quello, no, me l'hanno presentato la dritto, vai, un po' di tiro, non ne voglio di altro, o metto quello o metto il motor, uno di quelli metto. Una volta ho usato il Fuchs, era buonissimo, era, perciò lo metto sempre quello io, l'olio. Ho il Castro, il Castro Power 1 Racing. I valori c'è cioè, sui valori, praticamente le fanno di tante varie, però se il valore è quello è sempre quello l'olio, non è che ci siano diversità di cose. Boh, io so che è così. No, non è così, no, cioè. Il Bardal è diverso da tutti. Il Bardal ha la Polar Plus dentro, è una sostanza che riduce gli attriti, riduce, ed è un'altra cosa, come il Castro Power 1. Sono un altro mondo, sono, lascia perdere, no, non vi ne. Se tu metti, o metti quel bar da lì, o metti il Castro Power 1, senti la moto che in un altro mondo, senti. Vabbè, la lubrifica lì più forse, sarà più denso. Roba seria, raga, te lo posso garantire, roba seria. E tu prova a vedere se la mia moto vedi fumo uscire. Se fumi, fumi strani, cose così. La manzana appena appena, ma da voi va come un cannone, va. Tu dici l'olio di ricino, vedi? Ma l'olio di ricino sotto una pare attiva, non è che... Ma... Quasi un fiago, mamma mia. Secondo te non hanno increpato molto. Prima si usava l'olio di ricino, adesso non si usa più. La mischiata all'olio, già c'è già. È mischiata all'olio lo mette, ma un fiago, cazzo. Lo so come va a fiago. Ah, io ho sempre chiesto poco, era molto drubato, come un cannone. E quando io ne ho smontato i pezzi della mia moto, erano candidi, erano. Gli ho tolti perché erano 50. E quindi era un barroccio, cioè già andava, ma non come doveva andare. Però dovevi vedere il cilindro, il pistone, buriti buriti erano. Vabbè, i pezzi cosa fate? Se li buttate? Già vi dà, Giulia. Tienili, perché magari succede che succede qualcosa di una voglia, ce l'hai. No, lo metto nuovo. Non è buon così questa roba. I pezzi truccati valgono sempre poco, non ti grighi, puoi grippare da un momento all'altro con i pezzi truccati. Sono veloci, tutto quello che vuoi, ma non ci durano un cacchio, invece i motori normali durano di più. Tutte cazzate, perché se tu prendi il DR, è un carro armato. Non li facci così. Tutte cazzate, poi le mie sono raffreddate al liquido, quindi certo se ci metti i pollini non è che ti dure assai, no? I pollini prima ci avevano la sua validità, prima di era, manco riconoscevo questi pezzi di era, immaginati, io conoscevo Pinasco, Pollini, tutte queste cose qua. Che poi l'anima del motore è sempre quella, mi già. Cazzo, ingrippavani, e che andavani, andavano e pigliavano il sugato di Otu che costava due lire, costava, minerale al massimo, non era detergente niente, è logico che il cazzo di pezzi ingrippava, cioè moto truccate, cosa, cioè, ogni cosa c'è la sua logica, per il motore spinto, chi vuole il suo olio? Non puoi mettere un olio minerale del cavolo che costa 2 lire, non, oltretutto ce ne vuole anche di più, ce ne vuole. Se una miscela la devi fare per esempio a 2%, là ce ne vuole un minimo, altra, a 3,5 la devi fare, per andare bene. Non puoi usare un olio cattivo, cavolo, e far girare tanto il motore, è logico che ti molla a pezzi in greppe. Vabbè, quello più grasso è la miscela, normale, quando c'è pizza. Sì, ma poi già non è quello il problema, è un altro, il problema è che è sempre un uzzo che non vale a nulla. È arrivato a un certo punto, le protezioni non ce li ha. Cioè, se tu sei andando a bomba, non ti protegge più come ti dovrebbe proteggere. Che ci sono delle ingrippature, c'erano e ci sono tuttora, perché usano dell'uzzo da 13. Chi ci dice, ehi, anda a mettere euro, troppo un dopo, e metti quello, fate un fumo che non si può. Cioè, a buoni e morto la manzana veniva di voi Gesù Cristo. E uso di minerale, uso riciclato, uso che non si via nulla. L'uso va buono, voi. Tu lo sapete sintetico? 100%. Ma io metto il Mardal, a 100% sintetico. Certo. E si trovi bene. Se ti trovi bene, tu vai perché in Italia ci rispendi i motori e poi su. Avanti Luca, ci sei? Luca non c'è. Popo. Popo è andato a farsi la birretta. Che cosa c'è la sua logica? Prima, i ragazzini, non ne comprendiano nulla. Andavano e punivano il bese, evviva, camminenti. L'unica cosa c'è la sua logica, c'è vivo lo zubono, vivo. Cioè, ci vuole un olio che sia veramente, che abbia le prestazioni giuste. È come che tu alla tua macchina prendi, domani il buono 15,40. Non so come lo fa il motore, lo crepi. Perché per la tua macchina ci vuole il 5, ci vuole l'olio sintetico, l'olio buono. Quello là andava bene per i motori vecchi, andava bene. Perché se li metti quello se lo beve. Ogni cosa c'è la sua logica, c'ha. E la mia c'è proprio quello specifico per macchine turbo. E 5V40 monta. Non lo so, perché me la metto sempre il meccanico, no? Io da un cambio all'altro non lo tocco nemmeno perché non scende nulla lui. Rimane sempre al massimo. O 5,40 o 5,30 ti mette, altrimenti te lo fa coso, ti mette un olio buonissimo, ti mette Pux, si chiama Pux, il Titan, lui usa quello lì di solito, usa Bonaretto, io vado a Franco, la Franco Solina, sì, e lui usa quello, usa Bardal, usa Bardal come io, usa quelli molto buoni lui, è un meccanico professionista, non è qua, è onesto, ti fa pagare giusto e ti fa lavoro fatto bene. Papà, usa un olio molto buono, te lo sto già dicendo. Lo conosci come meccanico? Sì, sì. E paga. No, io mi servo già da un po' da lui. Papà, non ti fa spendere tanto. Ah, ti faccio un esempio. Alla Fiat ho pagato 350 euro per fare il tagliando. Olio, filtro, filtro dell'aria e filtro antipulline. Da lui non ho pagato manco 200 euro. È grata un zubono, grata, te lo posso assicurare. Sì, adesso devo andare, mi conviene entrare in fila, devo andare a fare il tagliando. Perché mi sta segnando... Ma tu pensa che ha cominciato dall'inizio del mese, cominciava 30 giorni per il tagliando, poi 29 giorni per il tagliando, così a scalare. Adesso è arrivato all'ultimo giorno e si è accesa la chiave. Beh, normale, adesso lo devi fare. Ma è finito Franco, ritorna a lui. Ho capito, ce l'ha di me la macchina già. No, ma lui so che ha sempre usato lì, buoni, buoni, buoni proprio. No, non risparmia a me, non ne frega niente. E non anda la stigosa a fatti i break, che abbiamo messo le manette al rovescio, la macchina non mi ha frenato, l'ho messa, ho tirato il freno a mano, vado a buttarci la molletta, vedo la macchina scendendo, ho fatto il tempo a salire sopra, cazzo. Se no nella varata di via Bonolo, vado in chili. Fatto il tempo, poi andava a Pirano, filava, lui a scalatura, a scalato, l'ho portato alla Franca, ma glielo credo, lo filava, andiamo su rimolletta in vento. Che stronzi. è perché non si dà la, a cui gli gioca invece di fare quel carico di s***o. E magari che l'ha arricchata. Arrigozzi, dove c'è anche l'elettrauto, c'è anche il meccanico, mi pare che va la sera, perlomeno, allora ce l'avevo. Ma me l'ha fatta quella. Per carità. Poi lui, purtroppo, nell'astra se ce l'avevo, sono ritornato perché non frenava. Mentre noi dobbiamo fare l'assestamento. Ma che se assestamento? Ma la macchina deve virare, non frenerà bene bene all'inizio, ma deve frenare. Questa cazzo schiacciava i pedali e si parava tutto. È come se non avesse né pastiglie né nulla. Ma vai, che t'ha pigliato in giro. Assestamento, sì, un po' caretto, ma poi sì. Ma niente di che, t'ha pigliato in giro, la cosa deve andare su, devi frenare, devi la macchina. Ecco, io non lo gioco. Dove lavoravo avevo la responsabilità di tutti i mezzi, dovevo controllare di olio e tutto quanto. E lui è responsabile, quindi lo so tutti i difetti che fa, tutto quanto. Feri, ne ho fatti mille volte, nei cavi, nei furgoni, da tutte le parti. Però frenavano sempre. All'inizio a volte fischietta anche un po', a volte secondo che pastiglie di vento. Però le pastiglie altro non stanno durando più, proprio pochissimo stanno durando. Prima duravano bene, adesso devi cambiare le pastiglie, una volta quelle davanti e una volta quelle di dietro. Sempre così, ogni volta che faccio il tagliando devi cambiare anche le pastiglie, una di davanti o di dietro, una volta per una. Io lo so già, non sono più come una volta, lo so, lo so. E prima erano di amianto, adesso non si possono più tagliare l'amianto. Boh, non lo so, perché magari anche il peso della macchina. Mi guarda che è il motore, anche se c'è molto peso, coincide sul consumo. A tu, io la macchina solitamente la uso in città, adesso d'estate la pensando anche fuori, ma se la uso in città senti più brillanti così. Devi frenare, devo salvare, poi chi c'è di dato, è normale che si consumino. E peggio muro in città. Quando andavo a Portotoro si viene dimenticato, diciamo, a pastiglie e ganasce, tutto. Sono proprio mai dimenticato. Normalissimo, eh. È una cosa normale, in città devi sempre brinare, fare, se no ti cude. E ogni volta soffrusci. Io lo so già. Non basterebbe uscire di là, mamma mia, capi cosa devi fare, paga chi se pagherà. Io lo so già. Sono così mi sembra, due o tre cambiate e poi ci vogliono i dischi però. No, i dischi ci vogliono quando sono consumati, quando li righi, se no i dischi ti possono durare la vita. Se tu non li fai rigare i dischi non si consumano. E vabbè, dopo, allora in genere come cosa, dopo 3-4 volte vogliono già andare, è così che funziona. Cioè perlomeno nelle macchine, nelle moto è un po' diverso. Ma solitamente li cambiano quando tu fai consumare troppo le pastiglie e li righi i dischi. E allora non c'è più nulla da fare. Se sono rigati non c'è che invece le pastiglie perché te le consuma subito, te le consuma, te le scava. E si spaccano se non stai attento. Allora, una volta questo tipo eravamo al semaforo di Ottawa. Stavamo tornando dal mare, c'erano anche bambini che erano piccoli e questa macchina si è fermata dietro di me al semaforo che era rosso, arriva questo tipo di moto di quelli che portavano le pizze, cazzo, sparato e sento boom, cazzo, si scutta di sa macchina che deve andare da me. Sono andato con lui, l'ho tolto dalla strada perché se no passavano le macchine e cazzo lo gassicavano. Me l'ho preso al braccio e l'ho portato di lato. Praticamente la moto tutta quanta fatta a pezzi, cazzo. Non vedere questa moto com'era, lui non ha base o cosa là. E cosa era successo? La platta era una platta mola, tutta in greffa, perché c'erano gli amici dietro. E ha perso le chiavi del blocco. C'è il lucchetto che blocca il disco, ha preso le chiavi, allora ha preso mazzetto e scalpello e l'ha spaccato. Solo che facendo questo lavoro le ha rovinato il disco, gliel'ha tutto sortato. Quando è andato a pregare la moto, non l'ha brillato, cazzo, si è uscito dritto. Ma con i gabbè, naga. Ehi, ci aveva il gomito fuori. E che cazzo, guarda, la mia ex moglie si è messa a gridare, non andare in mezzo alla strada, ha giubilato, correndo, gli ha giocato e è passata subito la macchina, così così che lo gassigheggiano. Ma l'ho caricato in braccio, l'ho portato tutti quanti, e bevi l'acqua, lasciatelo stare, non dategli nulla. Una sigaretta una gli voleva dare a fumare. Lasciatelo stare, lui non se l'ha reso conto, ci aveva lo soffuro. Ma non si tocca. Se no gli si dà. L'acqua potrebbe essere un'idea, ma non si tocca. Perché già, come si dice? Già ha subito un trauma. Qui ci sono tutti tanti macchi. Ecco, io sapevo come prenderlo. Qui ho chiamato l'ambulanza, è arrivato il 118 di Porto Torres, proprio quello che fa servizio al 118, e c'era Alessandro, già hai capito chi, quello che c'era acceso. E praticamente gli ho aiutati a caricarlo e l'hanno portato via. Ma la moto, tutti i pezzi, casse in mezzo strada, la ruota alla base, ruota e forcella, ma ruota alla base e la moto spaccata da là. Cazzo, ma quando un anno se ne è abitato da prima che la moto non frenava, prima di munita a correre. Cosa reso quello che abbia abitato? Erano tutti in greppa, ma ce l'hanno raccontato gli amici quello che era successo, che non aveva perso le chiavi, allora... ha detto che si è fatto dare da uno una macchina, in macchina, lo scalpetta se e l'ha spaccato così il lucchetto, che da voi questi lucchetti sono bettusi, chissà come ti ha fatto. Ma sono un imbecille, boh. Allora il lucchetto non è che si taglia subito, ha fatto leva sul disco, capito? Come lui dava i colpi, toccava il disco e sicuramente gliel'ha stortato. Quindi cadere da fila. Si abita del luce. Beh, ma poi, ma carità, no? Cioè, dici bizzini giovani, ragazzi, senza battente, senza, non vanno esperienza, non vanno in nulla, non ha baita nero che si offende. Sono un amato ignorante. Avrei cutè da cazzo, il torre è su là, spegnilo, no. Via, vabbè, ci ha preso tutti i culoni. Sono gabbici abitati, capito? Usano le moto come se fossero giocattoli. Non capiscono che si possono far male. La moto, la macchina, sono delle armi, sono. E tu non puoi permettertelo di fare un macco. Vabbè. È un'arma in mano, quando tu c'hai una moto, anche che sia 50, che va a una certa velocità, c'hai un'arma in mano, perché anche se ti tira a 50 km orari ti fai a pezzi. E anche la gente esperta, hai visto quella ragazza su Facebook, quella che faceva, c'aveva Kawasaki, Ducati, eccetera, faceva le acrobazie sulla moto, faceva andare la moto da sola, poi saltava sopra, e... la lanciava, a casa si metteva una ruota, poi si metteva in piedi sul sedile, tutte queste cose qui che faceva. Beh, non sai com'è morto, ne ha fatto di cazzardi, ha avuto un incidente sulla strada, senza fare la scema, sulla strada ha avuto un incidente e è rimasto. Ma bisogna stare molto attenti, la moto e la macchina sono delle armi, sempre accese, i bagli e ti scemi i denti. Un po' di gente, con la mia bocca, che cazzo di bebè, devi sentirli come parlano, e la posso andare così, ecco. Cioè, io molte volte mi riguardo a testa e piedi, dico, ma io ci manco, poi. Faccio dicendo velocità, che manco a Muragianna, cioè, velocità che... fantastiche, la mia moto anche se 50 va così, va volando, cazzardi. Altro là, ci devo lasciare che il Tyson vuole scendere giù, dai, mi ha fatto piacere, dai, fatemi sentire ogni tanto, così almeno, magari qualcuno sta ascoltando per le radici di buco e lo entra, vabbè, dai. salutiamo tutti anche la Cinebu. Ciao ciao. Ciao ciao Giace, ah dico una cosa un po' veloce, l'altro giorno c'avevo una vespetta bianca dietro, stavo scendendo da Porto Torres, stavo andando verso Platamona, che cosa che l'ho seminato? Gli ho dato una bella lezione, mi ha dato, e due l'accelerendo io la giubesso. Ma quanto ti fa tu? Non è quanto chilometri. Ho capito. Adesso è quanto chilometri non ce l'hai. Sì, già lo so quanto andando 80. Quanto ti fa 80 al massimo? 70-80, in quel discesone che c'è, scendendo nella litoranea per andare a Platamona. L'SR che lui mi faceva 100. E non avevo fatto quasi nulla, cioè va lui da lungo, la marmitta pulì, qualche casa cassatina, ma poca roba, e mi faceva il 100, però quando andavo a frenare era un belluga la frenata, dove sei attento? Di frenare prima con quelle velocità, di uno che lo sa frena prima. Sì, quello sì, ma se ti capite già uno stacco di colpo, come fa a frenare prima? Ti dice un cane, o ti dice una macchina da un incrocio, così, cosa vuoi? Devi stare attento, devi guardare la strada, stare molto molto attento. Poi già mi ci dà una macchina dall'incrocio, più di una. Gli ho detto che era un pezzo di merda, gli ho detto, soprattutto lì alla Buti Buti, io entrando al rifornitore con la freccia e tutto, la giuma non me ne è messa nella cosa, nella striscia, quella zebrata, che ti deve ritirare nella patente se passi vivi. Io dovevo girare lì, il rifornitore che c'è vicino a Rocca e Pancata. Cazzo, è Guido, ma adesso un altro stronzo, quello di dietro, ha frenato di colpo. Ma se io ho la freccia, ho tutto, ma perché cazzo mi devi fare così? Io ho la ragione, è che se mi tocca con la moto mi fa male, se mi tocca con un camioncino lo capotto 10 volte, lo capotto. E io pregavo che ci avessi uno di quei furgoni che usiamo noi. Ma poi che te lo posso passare io la macchina? E poi voglio vedere la colpa. Antu, io ne ho visto uno lì di incidente, di questo ragazzo in moto, questa macchina gli ha girato di colpo per andare al rifornitore, se sa mettere le frecce alle nulla, gli ha trovato la strada praticamente, delle corsa di sorpasso, qui ha girato, questo non ce l'ha fatta frenare, gli si è sbattuto e si è sbattuto le palle a serbatoio, ma le grida di questo ragazzo, ma le grida, non si, qua erano grida disumane, si è fatto malissimo. Lo so, perché è un animale, un porco è quello che l'ha fatto. È un porco da prendere la patente e ammazzarlo. Cazzo, tu che uno che lo sa, non deve. Le zisce zebrate, non le deve superare, c'è il ritiro della patente. Io se ho la freccia, ho tutto. Ho il diritto di girare il fornitore e tu non mi puoi tagliare la strada. Perché sei un animale, sei uno schifo, sei. Cioè, io se l'avessi trovato quel giorno lì, a quello, è che la moto non cammina di più, lo stavo seguendo, da giubisigidome, è che la moto non cammina di più, ed ho accelerato perché se ne è accorto che lo volevo picchiare, l'avrei preso, l'avrei capotato la macchina 10 volte, perché tu sei una merda, tu vuoi ammazzare una persona. Sì, Anto, bisogna stare attenti, bisogna stare più attenti agli altri che a te stesso, quella è la legge, bisogna stare attenti a te, ma soprattutto agli altri che devi vedere l'intenzione che hanno, perché ci sono quelli che ti girano di colpo, che ti tagliano la strada, senza mettere le c'è nulla, gli incidenti peggiori molto succedono per quello. E allora, o quello che ti... fai zitto, o quello che ti... cioè tu passi, fai passare una persona e lui passa, più o meno ne hai messa, uno ho preso a buccia un ragazzo, ma l'ho trattato proprio male, gli ho detto sei un miserabile, sì. Cioè era una donna che era mezza incinta, era, io l'ho visto, c'era il pancione, mi sono fermato al coso, Ghito ne manco ne sabbia, piglia buccia e passa dritto. Poi l'ho inseguito, mi ha detto tutti i colori, ho detto cazzo, io ti do un pugno in faccia e ti ammazzo. Quella c'aveva un bambino, brutto bastardo che non sei altro. Poi quanto ero incazzato il giorno, cazzo, ho visto che stava tremando, stava, perché gli volevo dare un cazzotto a bocca e ammazzarlo. Schifoso. Va bene, dai, con questo ti lascio. Adesso ti fa la doccia papà prima e poi Gabriele, va bene? Ciao già. Ciao a tutti, ci sentiamo, buona serata, e un bacione a Gabriele. Ciao, ciao. Saluta. Ciao. Saluta.